sarà pure un motivo, ci sarà, perché sei nata diversa da me. E perché mai proprio in quel punto lì, proprio in quel punto dove fai la pipì, ah ah ah, un motivo ci sarà, se i tuoi capezzoli li amo più dei miei, li amo. Scherzeggiano e tu somigli di più, sempre di più.